L'appuntamento con il cinema Visionari. Per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi, le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e poi sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Comunque dovremmo avere diversi ospiti quest'oggi, poi ci sono segnate nella scaletta le uscite in sala di oggi giovedì 9 ottobre, i suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il cinema sul piccolo schermo nella settimana appunto televisiva, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer sulla homepage del sito internet della radio, c'è l'opzione ascolta la diretta. Ritroviamo Simona Risi, questa volta in veste sempre di regista, ma del documentario VIP. Simona, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti, grazie. Come va? Bene, tutto bene. Tu? Bene, bene, bene. Ho visto il tuo documentario, intanto ti faccio i complimenti, e per chi ci ascolta, in breve diciamo di cosa si tratta. Sì, appunto in questo documentario io racconto due storie di gruppi di operai che decidono di occupare la fabbrica dopo il licenziamento. Il primo episodio è ambientato a Trapani, dove gli operai del cantiere, dell'ex cantiere navale di Trapani, occupano la petroliera Marettimo appunto in seguito al licenziamento. Nel secondo episodio, a Latina, invece racconto la storia di questo gruppo di operai della Tacconi Sud, che è una fabbrica tessile, e queste donne hanno occupato la fabbrica per oltre un anno. Quindi sono due storie che raccontano, girate tutte e due nella primavera del 2012, e raccontano un po' la crisi del lavoro, insomma, cercando di raccontarlo dall'interno, quindi dall'interno di questi spazi del presidio. Io ho passato qualche settimana in queste due situazioni e ho cercato un po' di raccontare anche molto la fragilità di questi momenti, no? Di queste lotte. Sì, sì, sì. Quindi mi interessava un po' raccontare la dimensione più intima di questo gruppo di persone all'interno di lotte che sembrano sempre molto potenti, molto forti, ma poi hanno anche la dimensione appunto della noia, della fatica, della paura anche di perdere il senso di quello che si sta facendo. Quindi un po' questa era un po' l'intenzione di questo lavoro che ho fatto. Ecco, proprio a proposito di intenzione, Simona, volevo chiederti come eri venuta a conoscenza di queste due storie e come è nata l'idea poi di raccontarle in forma documentaria. Insomma, le storie erano note entrambe alla cronaca. Come dicevo, in quegli anni ci sono stati tantissimi episodi di questo tipo. Se pensate appunto, non so, dagli operai che sono stati sulle gru, agli operai che si sono rinchiusi alla carcere della Dinara, qui a Milano un gruppo è stato per parecchio tempo sopra una torre della stazione centrale, quindi erano storie molto conosciute e anche sono state anche molto documentate da altri documentaristi. Sì. Per cui sicuramente il tema del lavoro è un tema attualissimo e molto interessante, per cui le storie le conoscevo. Io tra queste storie ho deciso di scegliere due storie che si differenziavano anche per genere, per cui abbiamo da una parte solo uomini, da una parte solo donne, che è una cosa anche abbastanza insolita, perché sì. Normalmente le lotte sono miste, diciamo, però in questo caso c'erano due contesti proprio anche separati da questo punto di vista, e quindi mi sembrava appunto, facendo un lavoro poi di osservazione, interessante anche questo aspetto, quindi vedere anche come veniva affrontato in modo diverso lo stesso contesto, no? Per cui banalmente da come impiegare il tempo lungo del presidio, quindi da una parte gli operai che giocano a carte e alla PlayStation, e dall'altra sono le donne che fanno le torte, che ricamano e e che sono ossessionati dalla pulizia del posto, perché questa, nonostante la fabbrica ormai fosse un luogo, come dire, privo della sua funzione, c'era questa cura maniacale nel tenerlo, no? In ordine, sì, nel tenerlo, sì, sì, decoroso. Quindi, oh. Sì. Simona, due storie molto attenzionate dall'opinione pubblica, dai mass media. Quello che fa impressione è intanto il nucleo ristretto di operai e di operaie che hanno portato avanti la vertenza rispetto agli impiegati, al numero degli operai coinvolti, e poi il deserto sociale che li ha accompagnati, perché sembravano veramente due vertenze nel deserto urbano. Sì, anche se in realtà questo con grosse differenze, per esempio sicuramente il contesto di Trapani era quello più isolato ed è anche quello che non per niente ha avuto anche un esito completamente opposto, perché appunto le due storie diverse anche nel risultato finale, no? Per cui le donne della Sacconi comunque adesso hanno ripreso a lavorare nella fabbrica, perché la fabbrica poi è stata rilevata da un nuovo imprenditore, quindi in un certo senso hanno vinto la loro battaglia. Dall'altra parte un gruppo che si è disgregato, che è fondamentalmente disoccupato in questo momento e che sicuramente ha sentito più l'abbandono da parte anche della stessa città, nonché delle istituzioni. Quindi sì, insomma, due contesti diversi, così. Allora, è stato un documentario che ha percorso i vari festival. Volevo chiederti anche che tipo di fruizione hai pensato, se ci sarà una forma distributiva di qualche tipo. Sì, tieni conto che appunto io sono una documentarista indipendente al 100%, quindi i miei documentari sono sempre autoprodotti, fanno fatica a avere una distribuzione. Insomma, quello precedente ha avuto parecchie proiezioni in rassegne, in festival. Questo spero che le avrà, insomma c'è ancora un anno di tempo, perché poi questa, la durata di vita dei documentari purtroppo non supera i 2 anni, però comunque al momento sono io. Queste produzioni per me sono destinate al mondo appunto dei festival, delle rassegne. È stato anche proiettato alla Casa del Cinema di Roma, quindi ha questo tipo di distribuzione, non è un prodotto che poi avrà altre cose, insomma non c'è altri tipi, non ci sono altri tipi di distribuzione in programma. Sì. Oh, in tempi di Jobs Act si chiude con un dubbio: la rinuncia ad alcuni diritti porta a più posti di lavoro? Mi sembra piuttosto è una domanda che mi mette in crisi, nel senso che è un argomento troppo troppo complicato, sì, troppo complesso, infatti. Devo dire, faccio solo un'osservazione, che poi appunto una delle tante possibili in questo momento, insomma, non sappiamo, in cui c'è questo tema molto attuale. Quello che più mi colpisce è l'inasprimento della rabbia tra lavoratori, quindi tra lavoratori che non hanno mai conosciuto un diritto e quelli che invece in qualche modo ce li hanno, no, sì, ancora. Sì, quindi sì, questa sì. È la cosa che mi colpisce di più, come se fosse un po' una guerra per accaparrarsi le briciole, sì, insomma, dei diritti, delle tutele che avanzano in questo momento di cambiamento, che sicuramente è inevitabile in un certo senso. Quindi è un tema troppo complesso adesso. No, figurati, infatti mi piaceva la domanda che ponevi al termine del documentario, perché insomma è sicuramente uno strumento di riflessione. In chiusura, Simona, i tuoi riferimenti o di questo lavoro in particolare in rete per saperne di più? Sì, beh, il mio sito dove si trovano tutti poi i miei lavori, che è simonarisi.com. Benissimo. A questo punto io ti do un abbraccio e speriamo di sentirci presto, come l'altra volta. Certo, grazie, buon lavoro. Ciao Simona, ciao. Ciao, ciao, ciao. Simona Risi, regista del documentario VIP, Work in Progress. Parliamo adesso della 14ª edizione di Incontri del Cinema d'Essai, che è in pieno svolgimento a Mantova, è cominciata il 7 di ottobre e oggi è l'ultimo giorno, 7, 8 e 9. Ne parliamo con Domenico Di Noia, che è presidente della Federazione Italiana Cinema d'Essai. Ci sei, Domenico? Sì, ci sono. Benvenuto a Visionari. Siamo nel pieno delle giornate del Cinema d'Essai. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, intanto comincia a avere una storia, 14 edizioni. Parliamo intanto delle caratteristiche di questi incontri. Questi incontri sono l'occasione per far vedere a tutti gli esercenti italiani gran parte della produzione dei film di qualità che usciranno nelle sale italiane a partire dai prossimi giorni, e per fare anche un po' il punto su quello che sta avvenendo nell'ambito del cinema di qualità, del cinema d'autore, perché cinema d'essai, una parola che sembra un po' antica, in realtà vuol dire il cinema non omologato, tutto quello che non ha a che vedere con i grandi blockbuster, con i grandi prodotti che arrivano in centinaia e centinaia di copie, ma invece tutti quegli autori che sperimentano e presentano film, diciamo, diversi. Oh, partiamo dalle sale, che sono l'elemento base. Chiaramente è un processo in corso da qualche anno, quello della crisi delle monosale, soprattutto nelle grandi città, ma anche nelle province. Come sta emergendo questo quadro all'interno di questi incontri di questa 3 giorni? Ma proprio ieri, durante appunto l'incontro, dove erano presenti anche gli istitutori, ma erano presenti anche l'istruzione, quindi anche il Ministero attraverso la Direzione Generale del Cinema, ho sottolineato come è vero che molte sale nelle grandi città hanno chiuso, però quelle che hanno resistito meglio in questi ultimi 14 anni sono proprio le sale di qualità, appunto quelle che non si sono omologate a fare tutti lo stesso film. Sì. E naturalmente la creazione e la costruzione dei multiplex in molte zone periferiche intorno alla grande città chiaramente hanno catalizzato soprattutto il pubblico più giovanile, quello che voleva chiedere i grandi blockbuster, quindi quelle che sono andate prima in crisi sono state le sale delle città che proiettavano il cinema commerciale, che si è molto spostato appunto su altro tipo di strutture, mentre le sale di qualità hanno continuato a mantenere sempre con difficoltà e sempre, insomma, difendendo con le unghie e con i denti la propria identità, però sono quelle che alla fine hanno resistito meglio. Oggi abbiamo oltre 600 schermi in tutta Italia che sono aderenti alla Federazione Italiana del Cinema d'Essai, e molto spesso sono le sale che gli spettatori che appunto vanno a vedere il cinema d'autore, il cinema dai Coen fino a Sorrentino o Almodovar, i Dardenne, i Candor, insomma, tutti gli spettatori conoscono benissimo queste sale, quindi sanno che queste sale esistono e che continuano ad operare. Quindi continua ad esserci una richiesta di cultura, e questo è buono. E, volevo chiederti, rispetto alla proposta culturale, cosa sta emergendo? Ma direi che qual è la grande diversità del cinema, appunto del cinema, quello che noi chiamiamo del cinema del sé, che è la capacità di portare all'attenzione quei grandi film che vengono presentati anche per esempio ai festival. Se non ci fossero i festival, servono anche soprattutto per scoprire nuove cinematografie, per scoprire nuovi autori, e poi le sale invece servono proprio per portare a un pubblico più vasto, a un pubblico delle sale dei cinema, dei prodotti che appunto altrimenti rimarrebbero solamente patrimonio del festival e non incontrerebbero altra distribuzione. E la cosa più interessante è che si continua a poter vedere finché arrivano appunto dai paesi più lontani, dalla Colombia, dal Sud America, dall'Europa, ma anche dagli Stati Uniti, quel cinema indipendente degli Stati Uniti che altrimenti non potremmo vedere, e anche tanto cinema italiano più di qualità, che non sia appunto la solita commedia, ma abbiamo visto anche qui che ci sono degli autori italiani che possono proporre anche delle cose nuove, non convenzionali. Questa è la cosa più importante, il fatto che molto spesso il cinema si adagia su un modello che ha funzionato e che viene ripetuto sempre. Ecco, il pubblico del cinema di qualità non accetta questo tipo di prodotto, ha bisogno di essere stimolato e di poter vedere delle cose, storie, formati, modi di raccontare che siano non convenzionali. Senti, alla luce del peso sempre maggiore che sta assumendo il genere documentario? Ma noi come Federazione Italiana del Cinema di Sì siamo molto contenti che questo genere abbia spazio all'interno delle sale. E, per esempio, l'anno scorso il successo a Venezia di Sacro Graal, che ha raggiunto anche delle quote di incasso non indifferenti, ha permesso appunto a tanta gente di vedere un film, un genere di film completamente diverso da come normalmente sono i film. Sempre più spesso possiamo vedere nelle sale in programmazione tanti film di genere documentario. E per esempio quest'anno, tanto per fare qualche nome, Cose belle, il treno va a Mosca e altri titoli che aveva l'Istituto Luce sono riusciti ad arrivare in tante sale grazie a un progetto con la Federazione Italiana del Cinema di Sé, che ha permesso in tante sale di far vedere anche le opere. Felice che è diverso di Gianni Amelio, appunto, ha avuto una buona distribuzione e soprattutto nelle sale dei sei, e siamo ben contenti. Non sempre si ottengono risultati eclatanti. Per esempio, c'era un bellissimo documentario all'ultimo Festival di Venezia che ha avuto i consensi di tutta la critica e tutti erano perché vincesse addirittura il Leone d'Oro, il film di Oppenheimer sulle stragi nell'Indonesia, che è uscito, che però non ha ancora trovato quell'attenzione sufficiente. Speriamo che nel corso dei mesi a venire venga riproposto, e noi ci impegneremo anche per riproporlo. In chiusura, Domenico, lo stato di salute della rete delle sale d'essai è in crescita, è sempre più diramata, come funziona? Ma io, essendo questa appunto la 14ª edizione ed essendo capitata in un periodo non certo di grandissimi successi, e non abbiamo in questo momento un film particolarmente importante che richiami grandi folle, e pensavamo che non ci fosse una grande partecipazione a queste giornate, invece è stato l'anno dei record, quindi tantissimi esercenti, tantissimi addetti ai lavori, ma tantissimo anche pubblico di Mantova che ha affollato le sale dove abbiamo presentato le anteprime per il pubblico, e questo ci dà, e vedendo anche i listini, vedendo i film che usciranno, ci dà qualche speranza in più. Probabilmente dovremo aggiustare un po' il tiro anche tra gli addetti ai lavori, bisogna cambiare un po' del sistema delle uscite, che purtroppo c'è questo annoso problema che in Italia quasi tutti i film di qualità escono in un periodo di tempo troppo ristretto e lasciano tutto il periodo estivo assolutamente sprovvisto di film, e è uno dei sistemi, per esempio, per sicuramente sfruttare al meglio i film durante tutto l'anno. In chiusura, diamo i riferimenti per quanto riguarda la Federazione dei Cinema d'Essè? La Federazione dei Cinema d'Essè ha la sede centrale a Roma presso l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, ed è aperta a tutti quei cinema che vogliono continuare appunto a programmare cinema di qualità, a organizzare incontri con gli autori, ad organizzare cineforum, a coinvolgere il pubblico. Ecco, questa è la nostra caratteristica, la nostra differenza rispetto ad altro tipo di strutture. Un abbraccio Domenico, a presto. Grazie a voi. Grazie ciao. A voi, arrivederci. Domenico Di Noia, presidente della Federazione Italiana Cinema d'Essé, sulla 14ª edizione di incontri del Cinema d'Essé a Mantova, cominciata il 7 fino ad oggi, fino al 9 ottobre. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento con Gabriele Del Grande, co-regista del documentario Io sto con la sposa, in uscita in sala oggi giovedì 9 ottobre. Gabriele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Allora, lo scorso giugno abbiamo sentito Antonio, l'altro regista, per parlare di un progetto che era in fase di conclusione. Stavolta siamo all'uscita in sala. Allora, per chi ci ascolta, Io sto con la sposa, di cosa si tratta? È un film documentario che racconta appunto una storia vera, per quanto fantastica, della storia del finto corteo di nozze che abbiamo organizzato da Milano alla Svezia per aiutare cinque amici palestinesi e siriani scappati dalla guerra, scappati a Lampedusa, ad attraversare l'Europa senza documenti, in barba alle leggi della fortezza Europa, che in questi anni hanno causato tanti morti in mare e tanti arresti sulle nostre frontiere. E in questa avventura ci hanno portati dietro le telecamere, abbiamo filmato tutto e ne è nato un film finanziato dalla rete con il più grande crowdfunding della storia del cinema italiano, che abbiamo presentato a Venezia a settembre e che oggi esce al cinema nelle sale. Uno dei dati importanti appunto di questa operazione è l'attacco, la provocazione, la sfida anche alle leggi restrittive in tema di migrazione della comunità europea. Sì, nel senso che, diciamo, tecnicamente parlando noi abbiamo commesso un reato, nel senso che abbiamo violato appunto le leggi che vietano a chi non ha il visto Schengen di attraversare le frontiere, di arrivare in Italia o di viaggiare verso altri paesi. E in realtà l'abbiamo fatto non tanto per disobbedire a una legge quanto per obbedire alla nostra umanità, nel senso che era l'ottobre dell'anno scorso, eravamo tutti scioccati dopo i naufragi di Lampedusa, ve lo ricordate, si è celebrato in questi giorni l'anniversario del 3 ottobre, 368 morti davanti alle spiagge di Lampedusa, e io fra l'altro in quel periodo ero ritornato dalla Siria, ero stato un mese prima in Siria a coprire la guerra come giornalista. Insomma, quando vedi la guerra sono cose anche che ti toccano anche, no, personalmente, al di là del lavoro. Quindi quando ci siamo ritrovati a Milano ospiti queste persone arrivate dalla guerra, le quali non potevano viaggiare a causa di qualche cavillo burocratico, abbiamo deciso di portarci, ci siamo messi nei loro panni e ci siamo, diciamo, imbarcati in questa avventura che sì, ha la dimensione del rischio ma ha soprattutto la dimensione del sogno. Cioè, noi in quei quattro giorni di viaggio attraverso l'Europa abbiamo fatto esistere un mondo talmente bello che ci ha fatto dimenticare i rischi. Il mondo bello è appunto il mondo di un gruppo di amici, un gruppo mediterraneo, che poi al di là di chi aveva documenti o no, ma insomma eravamo 23 persone, eravamo italiani, eravamo palestinesi, siriani, cioè ragazzi delle due rive che insieme condividevano e condividono il sogno di un mare mediterraneo che non sia più la fossa comune di queste leggi appunto che decidono chi passa, chi invece per passare deve andare a morire in mare affidandosi al contrabbando libico o egiziano. E poi una volta che siamo andati a fare il crowdfunding per recuperare i soldi che servivano per la produzione del film, abbiamo scoperto che quello stesso sogno apparteneva a migliaia di persone. Noi abbiamo 2617 produttori dal basso grazie ai quali abbiamo prodotto questo film, abbiamo più di 17.000 persone che ci seguono tutti i giorni su Facebook e insomma è un piccolo mondo di persone che come noi sono stanche di contare i morti e pensano che sia arrivato il momento di sdoganare il concetto di libera circolazione, come già ha fatto l'Europa per i paesi dell'est, non si capisce perché non lo voglia fare per il nostro Mediterraneo. Ecco, proprio a questo proposito, a parte che ho dedicato a questo documentario la copertina di questa trasmissione con un fotogramma proprio estratto da questo lavoro, e volevo dirti a proposito insomma di migrazione, che è un fenomeno di numeri piuttosto piuttosto importanti negli ultimi anni. Per come l'hai seguita, anche girando un po' il mondo, sia l'Italia, in Italia che in Europa, cosa sta cambiando? Se sta cambiando qualcosa, in meglio, in peggio, cosa sta succedendo? Ma ci sono cambiate tantissime cose negli ultimi anni, in particolare l'Unione Europea ha adottato politiche di libera circolazione con tutto quanto i paesi dell'Est Europa e con i paesi dei Balcani. Se lo pensate che negli anni 90 dall'Albania si arrivava appunto sui gommoni in Puglia e oggi da ormai 4-5 anni l'Albania ha firmato un accordo di liberalizzazione dei visti, per cui qualunque ragazzo o ragazza albanese che voglia venire in Italia a trovare un parente, a studiare all'università o andare a lavorare, lo fa semplicemente comprando un biglietto su iDreams, come farei io, come fareste voi, con un passaporto ma senza visto, e così se ne viene a Roma, a Berlino o a Parigi. Lo stesso è successo con i nuovi stati membri dell'Est Europa, penso alla Romania, alla Polonia, alla Bulgaria, alla Slovenia, cioè sono tutti paesi dai quali proviene più della metà della popolazione immigrata che c'è nel nostro paese o negli altri paesi europei. Quindi diciamo l'Europa ha avuto questo coraggio visionario, perché la direzione del futuro è quella, no? Di uno spazio di libera circolazione, e ha avuto il coraggio appunto politico di sperimentare, di applicarlo con i paesi dell'est. Verso il Mediterraneo invece continua ad esserci il vecchio approccio, che è un approccio militare, che è un approccio che si basa su una menzogna. La menzogna è quella che secondo cui gli sbarchi sono la causa dell'immigrazione, quindi se controlliamo gli sbarchi controlliamo l'immigrazione. La realtà, per la mia esperienza di 8 anni di ricerca sul campo in questo settore, è un'altra. La realtà è quella di un numero di persone che dai paesi mediterranei, africani, dei quali è quasi impossibile avere un visto, ecco, quel numero di persone che prima si va a rivolgere all'ambasciata per avere il visto, non gli danno il visto, decide comunque di partire e lo fa con il contrabbando, che diciamo, è l'unica porta aperta. Le frontiere sono aperte di fatto, il problema è che appunto non essendoci la via legale si passa per la via del contrabbando. L'Europa, anziché spendere soldi con i respingimenti che hanno portato a così tanti morti in mare in questi anni, più di 20.000, dovrebbe probabilmente porsi una domanda diversa e dire, ammesso che, cioè, dimostrato che gli sbarchi non sono la causa dell'immigrazione, perché l'immigrazione, ripeto, viene dall'Europa dell'Est, non viene dall'Africa, nei nostri paesi, se non sono la causa dell'immigrazione, il problema non è tanto fermare gli sbarchi quanto mettere quelle 50.000, 100.000 persone che ogni anno attraversano il Mediterraneo sulle barche del contrabbando, metterle nei canali legali, quindi semplificare le regole dei visti affinché queste stesse persone possano viaggiare in aereo con un visto con regole più semplici, oppure semplicemente con il passaporto in un regime di liberalizzazione dei visti come già stato fatto con l'Est. Non si capisce perché si sperimentano queste politiche veramente coraggiose con l'Est, che hanno dato ottimi risultati in questi anni, e con il Sud invece si conosce soltanto la risposta militare. Cioè, vuol dire, c'è un grande paradosso. Se voi pensate che la nostra marina, noi paghiamo Mare Nostrum, spendiamo milioni di euro per fare delle missioni di salvataggio che, per carità, fanno onore all'Italia, però l'assurdo è che noi andiamo a salvare le persone a cui abbiamo sbattuto la porta in faccia in ambasciata. Cioè, quelle stesse persone, anziché andare a morire in mare ed essere soccorse dalla nostra marina, potevano viaggiare in aereo con un biglietto direttamente per Berlino, Stoccolma, Londra o Parigi, dove poi vanno alla fine dei conti, anziché attraversare il mare in quelle condizioni. Gabriele, da oggi nelle sale in quante copie esce Io sto con la sposa? Ma usciamo con un numero di copie abbastanza basso, sono 23 città italiane dove sarà possibile vedere il film. L'elenco lo trovate sulla nostra pagina Facebook o piuttosto che su My Movies, o insomma sui classici siti del Trova Cinema. E abbiamo fatto questa scelta di uscire in poche sale selezionate con un buon pubblico, che, come voi sapete meglio di me, che la distribuzione in Italia è un po' una giungla, per cui insomma ci troviamo a dover combattere appunto con una produzione completamente indipendente e piccolissima come la nostra. Ci troviamo a combattere con le grandissime case di produzione e con le logiche alquanto bizzarre, diciamo, chiamiamole così, della distribuzione italiana. Quindi partiamo con un piccolo numero di sale, contiamo di riempirle all'inverosimile in questa settimana, perché c'è una grande richiesta da parte del pubblico, e speriamo che poi dalla settimana dopo, sull'onda di quella richiesta, si riesca ad estendere la distribuzione anche diciamo, alla provincia italiana, alle città più piccole. Se qualcuno di voi è interessato a vedere il film in città che non sono ancora coperte, può comunque organizzare una proiezione dal basso, basta andare sul nostro sito e fare una richiesta di una copia del film alla nostra segreteria. C'è anche questo meccanismo qua, no? dei cittadini, delle associazioni, teatri, centri culturali, che possono richiedere direttamente da noi il film e organizzare degli eventi anche nelle piccole città. E allora, a Roma siamo al Nuovo Aquila, all'Eden e al Ciak. Stasera, tra l'altro, all'Eden c'è una presentazione alle 8:30 con Antonio Gugliaro, che è uno dei tre registi. Sì. Allora, un in bocca al lupo, Gabriele, e ci risentiamo presto, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Gabriele Del Grande, co-regista del documentario Io sto con la sposa, in uscita in sala oggi giovedì 9 ottobre. E anche quest'anno si parla dell'edizione di Terra di Tutti Film Festival a Bologna da ieri fino al 12 ottobre. Siamo all'ottava edizione, ne parliamo con Stefania Piccinelli, che ne è co-direttrice. Stefania, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, ben ritrovati voi. Ormai abbiamo questo filo diretto Bologna-Roma la seconda settimana di ottobre. Bene, bene. Allora, quali sono, per chi ci ascolta, le caratteristiche del Terra di Tutti? Allora, Terra di Tutti Film Festival è un festival a entrata gratuita, completamente autoprodotto da due organizzazioni non governative, GVC e COSPE, che fanno cooperazione allo sviluppo e che si sono nel 2007, inventati questa formula di festival di documentari e cinema sociale dal sud del mondo, per cercare di attirare l'attenzione su quei paesi, quelle tematiche, quei problemi che non ci arrivano dai mass media, diciamo, ufficiali. Quante sono le opere che presenterete quest'anno? Allora, sono 49 film, corto e mediometraggi, massimo 60 minuti, che arrivano veramente dai quattro angoli del mondo, quindi dal, appunto, Brasile dei mondiali, alla Turchia, al Cile, ovviamente l'Italia con le problematiche legate a ambienti, immigrazione, Fortezza Europa, un focus su Gaza, ma anche dalla Cina, che ad esempio è un paese dove nessuna delle nostre organizzazioni opera, ma ormai il festival è promosso esclusivamente attraverso la rete, e insomma ha superato assolutamente le nostre speranze e i nostri confini. Ti volevo chiedere, tra i film che presenterete, se ci sono dei temi più pressanti rispetto ad altri più presenti? Allora, il Terra di Tutti Film Festival ha la caratteristica da sempre di avere una programmazione di tipo tematico. Sì. Quindi presentiamo più o meno sessioni da 2 ore, che sono sessioni con un filo conduttore, cioè, quindi tematico. Una tematica che purtroppo ci continua a stare a cuore, con cui apriamo il festival e con cui l'abbiamo aperto ieri sera al TPO di Bologna, dove continueremo anche stasera per poi spostarci al Lumière, invece al Cinema Lumière, venerdì, sabato e domenica, è quello della Fortezza Europa, che ai noi continua ad essere sempre più attuale, più drammatico e soprattutto più un circolo vizioso da cui pare né l'Italia né l'Europa voglia darsi gli strumenti per uscire. Mm-hmm. La Fortezza Europa è stata anche con noi alla prima serata di pre-festival, quindi fuori concorso. Tutti gli anni facciamo anche un pre-festival fuori concorso, abbiamo ospitato Io sto con la sposa, che anche ne abbiamo appena parlato con Gabriele Del Grande, esatto, che esce oggi, credo, sì, nei cinema. L'abbiamo presentata a Bologna e ha fatto un piccolo tour prima dell'uscita nei cinema e niente, quindi appunto il tema della frontiera. Purtroppo noi vorremmo tanto chiamare questa sessione di apertura del festival, invece che Fortezza Europa, tipo cittadinanza senza frontiere, ma ancora drammaticamente invece così. Un'altra sessione sicuramente che ci sta a cuore, quella su Gaza. Abbiamo fatto venerdì sera un focus su Gaza, entrambe le nostre organizzazioni lavorano in Palestina, GVC lavora a Gaza e ha lanciato una campagna, lavoriamo da sempre per l'approvvigionamento d'acqua, che è un dramma anche senza i bombardamenti a Gaza, e quindi teniamo moltissimo a questo focus Gaza venerdì sera con due filmati. Uno è About Gaza, che è il film di Simone Camilli, il reporter che ha perso la vita durante l'ultima operazione di attacco su Gaza, e verrà a presentarlo la persona con cui ha fatto il documentarista, con cui aveva fatto il film, che è Pietro Bellorini. E quindi sarà anche un momento, Bellorini rientra apposta dalla Palestina, quindi sarà proprio anche un momento importante per fare una riflessione su a poche settimane dalla fine dei bombardamenti la drammaticità e l'emergenza ancora della situazione a Gaza. A seguire Strip Life, che invece è la vita quotidiana a Gaza prima dei bombardamenti, quindi questi sono diciamo un focus a cui sicuramente teniamo molto. Distribuzioni dal basso mi ha segnalato un lavoro su cui mi piacerebbe spendere due parole, visto che sarà programmato domani lì da voi. Esatto. Legge 52, proibizionismo e repressione nella Tunisia post-rivoluzionaria. Ecco, cosa ci dici in proposito, visto che non so se riuscirò a sentire il regista in trasmissione? Il regista è qui, presenterà il film. Noi siamo molto molto contenti di questa collaborazione con distribuzioni dal basso, che ci stanno supportando anche tecnicamente per l'organizzazione del festival, quindi veramente credo che sia un ottimo esempio di rete. E questo film tunisino, siamo molto contenti, appunto fuori concorso Non guardarci, e sarà venerdì 10 alle 18 al Cinema Lumière, e parla appunto di questa Tunisia dopo la rivoluzione. In realtà c'è un altro film anche che parla di Tunisia post-rivoluzionaria, che è appunto Eco de Femme, che sarà sempre sabato alle 19, mi pare, o alle 20, insomma, in serata. Questi due film tunisini ci raccontano di una Tunisia dopo la rivoluzione, quindi quello che resta della rivoluzione, tra le altre cose, alla vigilia delle elezioni, perché a fine ottobre ci saranno le prime elezioni politiche in Tunisia. Credo che sia una prospettiva importante. Noi siamo contenti di ospitare questi film e anche ospitare testimonianze da questo paese in transizione, del vicinissimo a noi, perché da Roma credo che sia poco più di un'ora, poco meno di un'ora il volo Roma-Tunisi, e che sta vivendo delle grandissime trasformazioni. Quindi quello che resta delle grandi speranze della rivoluzione tunisina sono 3 anni ormai dalla stessa. In chiusura diamo i riferimenti internet per la programmazione? Sì, tutto appunto i 49 film, gli eventi collaterali, le mostre. Abbiamo ospitato una mostra di fumettisti e illustratori, anche questi per Gaza, Strips Not Bombs si chiama, e quindi tutto quanto si può trovare sul sito del festival www.terraditutti.filmfestival.org, oppure sulla pagina Facebook, appunto Facebook Terra di Tutti Film Festival, e poi anche su Twitter. Stefania, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, a presto e grazie a voi. Ciao ciao. Stefania Piccinelli, co-direttrice dell'ottava edizione del Terra di Tutti Film Festival a Bologna da ieri 8 fino al 12 ottobre. Thomas Bertacche della Tucker Film sulla distribuzione del film Class Enemy in uscita in sala oggi giovedì 9 ottobre. Thomas, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Allora, per chi ci ascolta, diamo qualche elemento di trama per quanto riguarda questo film. Beh, è una storia ambientata tutta all'interno di una scuola, di un liceo in Slovenia, probabilmente a Lubiana. Naturalmente entrato su una classe di ragazzi sui 17-18 anni e come reagiscono al cambiamento del professore di tedesco in questione. Da sostituire la loro docente classica di tedesco arriva un professore molto più tradizionale, molto più canonico nella modalità di insegnamento, molto più severo, e viene subito, come dire, quasi additato come rigido, quasi nazista, a rompere ancora di più il rapporto tra la classe di docenti e la classe di studenti. Interviene il suicidio di una delle ragazze, di una delle componenti della classe, non necessariamente legato ovviamente all'arrivo del professore, ma è la cosa più semplice a questo punto vedere nel professore il nemico, il colpevole di ciò che è avvenuto. Uno degli elementi più interessanti del film, che tra l'altro è di un giovanissimo, se non sbaglio è il suo film d'esordio, Thomas, è questa ambiguità dei ruoli, questo seminare dubbi, questo prendere il punto di vista dei diversi protagonisti, e anche il fatto che la verità e i ruoli non sono poi come uno se li aspetta, le cose cambiano durante tutta la narrazione. Sì, no, lui è molto giovane, lui ha 28 anni ed è veramente incredibile che un ragazzo di 28 anni riesca a fare un film non di bianchi e neri, ma piuttosto di sfumature di grigio. È chiaro che il film non vuole dare risposta, non si parteggia né per una parte né per l'altra, chiaramente, il pretesto della scuola, della classe, viene usato anche per capire quelle che possono essere le incomprensioni generazionali fuori dall'ambiente scolastico, nella vita di tutti i giorni. Ha una lucidità questo ragazzo di 28 anni incredibile, è riuscito a fare un film con una profondità di pensieri, con una convinzione di quello che stava facendo, che insomma penso potrà fare dopo questo anche molte altre opere interessanti. Questo fenomeno sembra di riflesso investire anche l'Italia, perché non è la prima volta rispetto a alcune tematiche di film che viene fuori il ruolo dell'insegnante e dell'insegnamento più in generale. La tendenza negli ultimi anni sembra proprio quella di colpevolizzare il corpo docente e difendere, sto parlando per esempio del ruolo delle famiglie, i ragazzi a tutti i costi. Sì, oddio. io sono abbastanza d'accordo con te, anche se penso di non essere in grado di fare. Però mi sembra abbastanza diffuso di come sì, fenomeno. È assolutamente diffuso. In questo caso lui, l'ho anche detto poi in conferenza stampa a Roma qualche giorno fa, si sente più vicino. Non è che si senta più vicino al professore, diciamo che lui dice di aver avuto un professore nella sua carriera scolastica che era rigido, era duro, era molto severo, come quello che va a rappresentare lui, che avrebbe, usando le parole sue del regista, avrebbe volentieri ucciso quando aveva 16-17 anni, e che invece ora ritiene essere il docente più importante che lui ha avuto per la sua crescita personale. Poi è chiaro che girando frequentando qualche amico che magari insegna o vedendo un po' come si comportano i ragazzi di adesso di 15, 16, 17 anni, talvolta, ma forse solo perché abbiamo qualche anno in più, si viene da pensare che sono un po' troppo protetti, insomma, ecco, sono poche volte lasciati da soli a risolversi i loro problemi senza aver bisogno dei genitori. Per questo mi sembra, come dire, chiacchiere un po' che non mi sento preparato a affrontare, okay. Se non magari al bar, insomma, ecco. Senti Thomas, come avete incontrato quest'opera e come avete deciso poi di distribuirla? Ma guarda, noi siamo una casa di distribuzione che è molto legata al territorio, insomma siamo la proprietà della TAC e di due circoli del cinema, uno di Pordenone e uno di Udine, e l'anno scorso a Venezia avevamo il film Zoran, che era presentato, poi ha vinto la settimana della critica ed era il film più importante per noi. Nella stessa sessione della settimana della critica abbiamo visto questo film sloveno, che da Udine si parla di un'ora e un quarto di macchina. Il film ci ha colpito tantissimo, ha piaciuto moltissimo a Venezia, perché arrivò, come dire, a un'incollatura alla Zora, insomma, per vincere il premio del pubblico della settimana della critica. ci siamo sentiti quasi anche in dovere, no? Di dire questo è il nostro territorio, insomma, un concetto un po' più di Europa, un po' meno di Italia, insomma, una distribuzione che cerca anche di vedere cosa succede a qualche centinaio di chilometri, certo, dalla sua sede. E chiaramente, insomma, essendo una piccola distribuzione, abbiamo bisogno di tempi un po' più lunghi per riuscire a costruire un film, a costruire la promozione, a costruire, insomma, di occuparsi del doppiaggio e tutto quanto, però credo che, insomma, avergli dato un po' di tempo dopo la presenza veneziana, riuscire a portarlo nelle sale adesso in ottobre, quando anche poi le scuole cominciano a portare i ragazzi al cinema, quando, insomma, la scuola appena ripartita, credo sia stata la cosa, mm-hmm, la cosa migliore. Insomma, io sono piuttosto convinto che il film piace, insomma, il film riesce riesce a far discutere le persone che vanno a vederlo. Sì, sì. Da oggi a toccare problemi reali. Sì, da oggi nelle sale in quante copie, Thomas? Sono 25 copie, siamo presenti in tutti i capoluoghi più grossi, due sale sono a Roma, Greenwich al Quattro Fontane, a Milano, diciamo che è più o meno quello che volevamo, insomma, riuscire a uscire con un numero di copie sufficiente ma non enorme, 25, insomma, è un numero di copie abbastanza buono per poter poi avere la possibilità di aumentarlo aumentare la diffusione la prossima settimana. Mm-hmm. È chiaro, usciamo in un periodo in cui stanno uscendo tantissimi film, insomma, oggi se non sbaglio ne escono 9 nuovi. Mm-hmm. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, speriamo. Ciao, ciao Thomas. Buona ciao. Giornata, ciao. Thomas Bertacche della Tucker Film sulla distribuzione del film Class Enemy in uscita in sala oggi giovedì 9 ottobre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Bene, siamo in collegamento per parlare di un altro documentario con Dario Acocella, Acocella, regista di Ho fatto una barca di soldi. Dario, ci sei? Sei arrivato? Eccomi, sono qui. Eccomi, ciao, ciao. Allora, benvenuto intanto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi. Ci siamo anche conosciuti de visu e la cosa mi fa piacere perché non capita quasi mai, insomma, sempre contatti telefonici, abbiamo avuto modo anche di chiacchierare e ho avuto modo di vedere il tuo documentario. E chiaramente a chi ci sta ascoltando, diciamo di cosa si tratta. Allora, il film documentario è nato nel 2012 con l'esigenza di portare alla luce, di raccontare Fausto Delle Chiaie, che è un pioniere della street art che opera a Roma e intorni di Roma da più di 40 anni. Portarlo alla luce poi, insomma, non era neanche compito mio, perché lui si era già portato alla luce benissimo da solo che sicuramente il suo stile di vita lo conoscevano in pochi, la sua missione la conoscevano in pochi, conoscevano molto meglio le sue opere. Però io mi sono soffermato un po' di più sull'uomo, che mi interessava un po' di più rispetto all'artista. Oh, il progetto com'è cominciato? Come hai conosciuto questa storia e come è nato il desiderio di raccontarla? Guarda, io ho conosciuto Fausto negli anni 90, perché mi aggiravo da quelle parti, spesso lui opera sempre a Piazza Augusto Imperatore, e salata degli anni 70. Io mi aggiravo da quelle parti, quindi conoscevo bene le sue opere. Lui fa queste opere strane, strambe, fa degli interventi sul luogo abbastanza particolari, perché non li ha mai visti prima. Ho conosciuto all'epoca, poi nel passare degli anni si era stretto un rapporto di comunque amicizia. Ogni volta che passavo di lì prendevo un'opera, facevamo due chiacchiere, eccetera, eccetera. E a quando poi un giorno facciamo una lunga chiacchierata d'inverno nel 2011 e io gli paventai questa possibilità. Lui era una persona molto, molto schiva, molto riservata, e accettò con il beneficio, insomma, del dubbio. E poi piano piano sono riuscito a convincerlo, ma insomma abbiamo girato 7 mesi, perché un giorno sì, due no, insomma è stato complicato, non era una situazione facile da gestire, però è stato molto, molto carino e molto disponibile poi. Oh, quali sono state le cose che ti hanno più impressionato e più spinto a parlarne? Allora, la cosa che mi ha impressionato di più è stata una domanda, io a un certo punto, una domanda che gli ho fatto quella sera, che poi mi ha spinto perché io vedevo lui che stava lì insomma da una vita, da anni, pioggia, sole, insomma, io veramente cercavo, mi chiedevo, ma tutta questa caparbietà di ripresentarsi ogni giorno nello stesso luogo, dal quale poi era stato inizialmente anche cacciato dai vigili per occupazione del suolo pubblico, a un certo punto ha convinto anche loro e lo tollerano anche loro senza problemi. E la domanda che ho fatto è stata, dico, scusa Fausto, ti prego, dimmi, svelami questo arcano, ma perché in qua tutti i giorni, ma chi ti aspetta? Cioè, perché non hai deciso di andare in uno spazio convenzionale, eccetera? E lui mi ha risposto in un modo, ecco, un po' francescano, passatemi il termine, dicendomi che lui aspetta, è lui che aspetta gli altri, non, a lui non lo aspetta nessuno, lui è felice di proporre continuamente sul territorio le sue opere e ricevere dalla gente complimenti piuttosto che indifferenza, che sono per lui il risultato e l'appagamento massimo rispetto alle opere che produce. Ho visto che è un quarantennio che opera 40 anni precisi. Il tuo protagonista, sì. Volevo chiederti qual è stato finora il suo rapporto, per esempio, con il mondo dell'arte, con le gallerie e con le opere nello specifico. Allora, il suo rapporto di Fausto, no? Guarda, lui è un personaggio atipico. Nel senso che ha studiato all'Accademia d'Arte Drammatica, sì, all'Accademia d'Arte, che tra l'altro sta lì dietro, sì. E, dopodiché con il passare degli anni lui è sempre e costantemente stato invitato, gli hanno proposto sia Bonitoliva, sia insomma gallerie importanti, gli hanno sempre proposto di fare delle collaborazioni e lui ha sempre accettato a mezza bocca, a volte sì, a volte no, perché ha sempre creduto fortemente in questa sua convinzione, che poi è un po' il manifesto della sua invenzione. Lui si dice che sia l'autore del manifesto infrazionista, uh-huh. Ed è la realtà, cioè lui ha sempre detto che le sue opere in una galleria o in un museo non c'entrano, non come questione di spazio, ma come questione di senso, nel senso che un po' come fu all'epoca per Man Ray, quando c'era il remake di girare l'urinatoio e farne una fontana. Diceva, io spesso mi ispiro a quello che trovo sul luogo, quindi qualsiasi opera estrapolata da quel contesto non avrebbe più un senso reale e concreto di esistere. E quindi lui ama, so che anche tempo fa, quando aprì l'auditorium del Parco della Musica, gli avevano chiesto un intervento importante dove c'era anche un cospicuo corrispettivo in denaro. Lui rifiutò dicendo che appunto non aveva tempo perché si doveva dedicare al suo museo plein air. Ecco, sì, proprio a questo proposito, Dario, riesce a vivere del suo lavoro? Questa è una domanda molto delicata che io ho sempre fatto in Ternos. Materialmente io so che lui riceve una pensione minima, non so legata a che tipo di... probabilmente non so se era dei genitori. Lui sì, sicuramente vive delle offerte delle persone che prendono le opere, chiaramente con grande fatica. Tra l'altro lui ogni giorno viene dalla Sgurgola, che sono 70 km di treno andare e 70 a tornare tutti i giorni, e chiaramente sì, ci vive sicuramente a stento, sicuramente a fatica, anche se poi lui sai, fondamentalmente riduce le necessità umane, i bisogni del mangiare veramente al minimo. Quindi, però la verità è che questa cosa qui è sempre un po' più un peso nell'occhio di chi guarda. Io mi sono reso conto poi parlandoci che è un po' più, non so come dirti, un mio problema, nel senso che lui, per lui è sufficiente così. Ecco, per lui è più necessario riuscire ad espletare le sue esigenze artistiche, tant'è vero che io sono stato a casa sua ed è completamente pitturata, perché lui è in questo vortice continuo di angoscia creativa, per cui dipinge a tutte le ore, in tutti i minuti, fino a addormentarsi quando si sveglia. È una cosa, insomma, ricorda un po' un Ligabue, un po' meno, diciamo, un po' meno folle, però lo ricorda un po', non so come dire. Senti, il suo rapporto con la gente, con i fruitori delle opere, soprattutto quelle che trova quando espone all'aperto, chiaramente. Il suo rapporto è straordinario, è partecipativo, nel senso che lui a parte include, visto che tu insomma hai visto il documentario, lui include molte delle persone che passano ignare del loro destino nelle opere come Doppione, come tante altre. Per lui è l'infa vitale, lui ha un rapporto cordiale con tutto e tutti. Io, stando lì mesi con lui, ho visto che ha una schiera di persone, amici che tornano di continuo, lo vengono a trovare da fuori. Il loro rapporto straordinario, nonostante non abbia nessun mezzo per essere rintracciato in nessuna maniera, non ha telefoni, non ha telefoni fissi, non ha cellulare, non ha nulla. Tutti, ognuno di noi che poi si innamora di lui, prende, va lì e sa di trovarlo lì. Poi chiaramente ci sono anche le tante persone che lo ignorano, lui spesso si compiace di questo, lo dice proprio in maniera molto aperta, nel senso che lui, io allestisco 100-150 metri di strada, dice, se uno passa qui non si accorge di niente, significa che ho sbagliato ancora qualcosa e dopo 40 anni devo cambiare ancora. Quindi questo è, insomma, è veramente una grande capacità di mettersi in discussione come artista, insomma. Senti, ho fatto una barca di soldi, fa riferimento a un'opera sua, sì, e, sì. È una scelta di titolo anche notevole, secondo me. Sì, nel senso che poi chiaramente è anche un po' provocatoria, perché è legata un po' alla sua opera a cui facevi chiaramente riferimento, che è questa barca fatta con plastilina spagnola, quello che capita, con i soldi dentro, le monete, letteralmente, poi ho fatto una barca di soldi. E dall'altra parte, per sottolineare e ricordare anche quello che lui realmente pensa di se stesso, cioè lui pensa che non si può essere più ricchi di questa sua attuale condizione, cioè quella di appagare esclusivamente le proprie esigenze interne, che sono quelle che poi umanamente ci distinguono da qualsiasi altra razza sul pianeta. Senti Dario, ha fatto e sta facendo il suo percorso festivaliero, il documentario, volevo chiederti, sì, se è prevista anche qualche altra forma distributiva. Sì, guarda, dal Festival di Roma l'anno scorso, adesso sta facendo un po' il giro all'estero. Sicuramente è un prodotto abbastanza di nicchia, quindi sicuramente è un po' difficile da distribuire, perché parla non solo dell'arte, insomma, ma la tratta magari in una forma anche un po' poco generalista, non so come dire. E però quello che si spera adesso è di riuscire a fare una one day date, quindi di fare una giornata in cui l'opera esca per 3 giorni in contemporanea, che è una forma che a me piace molto, devo dirti la verità, sia sulle televisioni a pagamento e non, che su internet in streaming, che al cinema. Quindi uscire in tutte le versioni possibili in 2-3 giorni, in maniera tale da lasciare la possibilità di fruirne a chiunque a pagamento e non. Benissimo. Senti, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Guarda, fino a questo momento, a parte il sito della società di produzione, che è la 0100, al momento c'è poco, perché noi in realtà non siamo soli, perché l'abbiamo coprodotto con Rai Cinema, e poi chi chiaramente se ne sta occupando dal punto di vista distributivo è la Berta Film, che sono dei ragazzi indipendenti molto in gamba toscani, e quindi o 0100 o Berta Film, insomma, okay, uno dei due. Chiunque ci volesse mai contattare, insomma, siamo qui e siamo pronti. Bene. Dario, io ti abbraccio, a risentirci presto, spero. Grazie, grazie mille a voi per lo spazio, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Dario Acocella, regista del documentario Ho fatto una barca di soldi. È con noi Francesco Del Grosso, regista del documentario Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, quando Maurizio Di Rienzo aveva presentato i suoi lavori al Bifest, alcuni documentari, una serie di documentari al Bifest, gli avevo chiesto i contatti e, leggendo un po' di cosa si trattava, mi incuriosiva molto il tuo lavoro. E allora, per chi è all'ascolto, Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia, che storia è? Beh, la storia di un cittadino come tanti, che un giorno di settembre, per la precisione il 12 settembre del 90, è scomparso in circostanze misteriose. Poi, in seguito delle indagini, ma soprattutto da parte della famiglia di di Davide, la caparbietà della moglie e dei figli e di un comitato che poi è nato, si è giunta comunque alla conclusione che si è trattato di un sequestro, perché non era un cittadino come tanti in realtà, ma era un esperto di guerre elettroniche. Quindi lui è stato sequestrato a poca distanza dallo scoppio della prima guerra del Golfo, quindi le sue competenze potevano servire per utilizzare particolari attrezzature che l'Italia vendeva all'estero, soprattutto in campo bellico. Sì. E quindi abbiamo realizzato questo documentario mettendo insieme una squadra, mi ha visto insomma impegnato alla regia, e una produttrice Giulia Piccione e tutta una serie di persone che avevano già collaborato con me, che ci ha dato appunto la possibilità di realizzare questo film e che ha avuto, come hai ricordato tu, l'anteprima al Bifest, in concorso. Senti, è che ci sono state difficoltà nel realizzarlo, mi rendo conto insomma che trattandosi di una storia delicata degli impedimenti potevano esserci insomma. Ma innanzitutto bisogna ricordare che questo è un documentario, quindi già fare documentari è difficile di suo. Sì. Poi quando ti confronti con una tematica così difficile, con una storia che comunque è legata a un certo livello di segretezza nato, dove comunque ci sono stati degli stagi, ci sono state minacce, ci sono state tutta una serie di, diciamo, di episodi che hanno appunto depistato le indagini e la voglia di cercare la verità da parte della famiglia, noi ci siamo scontrati contro le stesse difficoltà, che poi comunque erano quelle di riuscire a raccontare e a portare sul grande schermo questa storia, però insomma ci siamo riusciti e i primi frutti insomma si stanno vedendo dalle molte partecipazioni ai festival, a due riconoscimenti, festival importanti, e a breve, a fine ottobre ci dovrebbe essere una proiezione alla Camera dei Deputati. Segno che appunto i film non cambiano la vita, però magari aiutano a cercare delle verità, aiutano a raccontare anche storie che se no rimarrebbero sepolte. Senti, a questo proposito volevo chiederti a che punto sono le indagini e cosa hai scoperto tu indagando in questa storia? Diciamo, le indagini sono ferme. Nel 2000 è stata data la morte presunta di Davide Cervia, adesso siamo a 24 anni di distanza dal sequestro. Però la famiglia non si è arresa e insieme appunto ai loro legali hanno intentato una causa civile contro lo Stato per appunto la ricerca della verità, che si sta svolgendo e non si sa appunto a che punto si arriverà. Per quanto riguarda il film, io non ho mai visto il film come un'inchiesta, ma come ovviamente un'odissea pubblica vista da un punto di vista privato. E ovviamente attingendo a tutta una serie di schemi o anche di stilemi tipici della spy story. Quello era appunto per poter rendere più fruibile allo spettatore questi 24 anni, che poi sono raccolti in 85 minuti di film. Cosa ne sarà adesso del tuo documentario? Oltre alla partecipazione ai festival, hai previsto o hai pensato a una forma distributiva? Ma guarda, ti ripeto, quando si parla di documentario è sempre difficile trovare una distribuzione. I festival sono un circuito importantissimo, che danno molta visibilità. Ovviamente ci siamo affacciati sul mercato da 5 mesi, quindi stiamo cercando di far fare curriculum al film così da poterlo poi presentare a possibili distributori. Noi ci stiamo provando, stiamo percorrendo tutte le strade, spero che prima o poi, oltre anche a delle proiezioni pubbliche, si riesca appunto a portare anche il film sui vari punti di discussione, sui possibili canali. Bene, allora io ti ringrazio, magari facci sapere se ci sono novità e magari ne riparliamo. Ok, grazie a voi, vi daremo aggiornati. Ok, un abbraccio e a presto. Ok, ciao Francesco. Francesco Del Grosso, regista del documentario Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia. Allora, avremmo dovuto sentire Alberto Fassina di Partenos sulla distribuzione del film Il Regno d'Inverno, in uscita in sala oggi giovedì 9 ottobre, e però non riuscendo a contattarlo ci siamo messi in collegamento con Andrea Paco Mariani per quanto riguarda distribuzioni dal basso, per un paio di novità che riguardano questo mese di ottobre. Di una ne abbiamo già accennato con Stefania Piccinelli, perché sarà in programmazione domani al Terra di Tutti Film Festival, ossia il documentario Legge 52, proibizionismo e repressione nella Tunisia post-rivoluzionaria. E poi c'è invece un'altra novità, un cofanetto che riguarda la situazione dei Rom a Bari, se non sbaglio. Però intanto, Paco, ben ritrovato, parlacene tu. Anzitutto buongiorno a tutte e tutti, è sempre un piacere essere in diretta con voi. E sì, come accennavi tu, questa settimana abbiamo fatto due nuovi lanci in concomitanza anche con il Terra di Tutti, con il quale stiamo collaborando per questa edizione. Sì. E uno dei due lavori è appunto Legge 52, che è un documentario realizzato quest'anno da questo regista tunisino che sarà ospite in sala domani sera per questa prima nazionale italiana di questo lavoro, ed è appunto un documentario di circa 30 minuti che, attraverso anche una serie di testimonianze raccolte direttamente a Tunisi, racconta appunto quello che è la situazione odierna rispetto alla questione del proibizionismo e alle leggi repressive in tal senso. Ovviamente questo tipo di aspetto serve, questo spunto, diciamo, legato al proibizionismo, serve per tracciare invece anche un ragionamento più ampio che fa il regista nel film, rispetto a come alcuni ambiti, alcuni strumenti della repressione non siano assolutamente cambiati dopo il crollo del regime di Ben Ali. In certi casi addirittura dalle testimonianze emerge anche che proprio non solo il sistema giudiziario, ma addirittura certi giudici che si occupavano di repressione nell'ambito del filone del proibizionismo sulle droghe leggere sono rimasti gli stessi anche dopo. Quindi le testimonianze aiutano molto a capire non solo questi aspetti, ma anche appunto come il proibizionismo in questo momento viene usato, come in passato, anche per la repressione del dissenso giovanile. Certo. L'altro lavoro di cui parlavi è appunto Quaderni Gitani, e raccoglie la trilogia di Giovanni Principalli, che è appunto un regista di Bari che vive in Canada adesso. E questo cofanetto è molto interessante anzitutto perché raccoglie i suoi tre documentari realizzati dal 2003 a oggi sulla comunità Rom rumena di Bari, e all'interno del cofanetto c'è anche un libretto di circa 40 pagine con interviste, fotografie e vari articoli e riflessioni. E questo lavoro appunto di Quaderni Gitani l'abbiamo lanciato stamattina sul portale, e è il documentario numero 40 che abbiamo in catalogo, quindi siamo anche contenti, insomma, di vedere che il percorso del nostro portale continua ad andare avanti, si arricchisce di nuovi lavori e progettualità. Benissimo, allora io ti ringrazio, sei riuscito a essere esaustivo e molto sintetico. Paco, ci sentiamo presto. A presto. Ciao, un abbraccio. Ciao. Bene, anche tutto per Visionari di questa settimana. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo.